Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Dopo il pasto lasciarono l'accampamento di El Sordo e cominciarono a scendere per il sentiero. El Sordo li accompagnò fino al posto di guardia più basso. «Salud!» disse poi. «A stasera!» «Salud, camarada!» disse Robert Jordan, e i tre cominciarono a scendere per il sentiero mentre El Sordo li guardava immobile. Quel tardo pomeriggio di maggio era caldo e a metà dell'ultima china ripida Pilar si fermò. Fermandosi a sua volta e girando gli occhi verso di lei, Robert Jordan le vide gocciolare di sudore la fronte. La sua faccia bruna gli sembrò pallida e la pelle smorta. Aveva dei cerchi scuri intorno agli occhi. «Riposiamoci un poco», egli disse. «Stiamo correndo troppo». «No», disse Pilar. «Andiamo avanti». «Riposati, Pilar», disse Maria. «Hai un brutto aspetto». «Zitta tu», disse Pilar. «Nessuno ti ha chiesto niente». Pilar continuò a camminare, ma quando fu in cima aveva il respiro faticoso e il viso coperto di sudore. Adesso il suo pallore era evidente. «Siediti, Pilar», disse Maria. «Te ne prego, siediti». «Bene», disse Pilar, e tutti e tre si sedettero sotto un pino e si misero a guardare in fondo al prato le cime dei monti che sembravano sbucare bruscamente dall'altipiano ondulato. Sulle cime la neve brillava nel sole del primo pomeriggio. «Tu non ti senti bene», disse Maria. «Non è nemmeno questo. Vieni qui, guappa, e metti la testa sulle mie ginocchia». Maria le si accostò. Tese le braccia, le incrociò come uno che voglia dormire e non abbia cuscino, e si buttò giù con la testa sulle braccia. Alzava la faccia verso Pilar sorridendole, ma la donna seguitava a fissare i monti in fondo al prato. Carezzò la testa della ragazza senza guardarla, poi fece scorrere un dito rozzo sulla fronte di Maria, sull'orlo dell'orecchio e sulla nuca, lungo l'attaccatura dei capelli. «Ancora un pochettino e la avrai, inglese», disse a Robert Jordan, che le sedeva dietro. «Non parlare così», disse Maria. «Sì, lui ti abbia pure», disse Pilar senza guardare nessuno dei due. «Io non ti ho mai voluta, ma sono gelosa». «Ma Pilar», disse Maria, «tu stessa mi hai spiegato che non c'era niente di questo fra noi due». «C'è sempre qualcosa di questo», disse la donna. «C'è sempre qualcosa di quello che non dovrebbe esserci, ma dentro di me... No, realmente non c'è. Io voglio la tua felicità e niente di più». Maria non rispondeva e giaceva immobile, cercando di non far pesare troppo la testa. «Sentimi, guappa», disse Pilar, facendo ora scorrere assorta il dito sul contorno della guancia della ragazza. «Sentimi, guappa, io ti amo, ed egli ti abbia pure. Io non sono una tortigliera, ma una donna fatta per gli uomini. Questa è la verità. Ma ora mi diverte dirti così, in pieno giorno, che ti amo». «No, non sono una pervertita, ti dico la verità. Pochi uomini ti parleranno sinceramente e nessuna donna mai. Io sono gelosa e lo dico, ecco qua, e lo dico». «Non lo dire», disse Maria. «Non lo dire, Pilar». «Perché non lo dire?» disse la donna, sempre senza guardare gli altri due. «Io lo dirò finché non mi divertirà più dirlo. E quel momento...» e ora guardava Maria, «è già arrivato. Non lo dico più, capisci?» «Oggi non sono io», disse Pilar. «Oggi sono molto poco me stessa. Il tuo ponte mi ha fatto venire il mal di testa, inglese». «Lo chiameremo», disse Robert Jordan, «ponte mal di testa, ma io lo scaraventerò in quel valico come una gabbia da uccelli rotta». «Bene», disse Pilar, «continua, lo spezzerò come si spezza una banana dopo sbucciata». «Ah, mangerei volentieri una banana», disse Pilar. «Avanti, inglese, continua a parlare con grandiosità». «È inutile», disse Robert Jordan, «torniamo al campo». «Il tuo dovere, già», disse Pilar. «C'è tempo, ti ho già detto che vi lascerò soli». «No, ho molto da fare, anche questo è molto e si fa presto». «Zitta, Pilar», disse Maria. «Dici delle cose grossolane». «Io sono una persona grossolana», disse Pilar, «ma sono anche molto delicata, soy muy delicata. Vi lascerò soli». E quel discorso della gelosia era una sciocchezza. Ce l'avevo con Joaquin, perché ho visto sulla sua faccia quanto sono brutta. Sono gelosa solo dei tuoi 19 anni. che questa specie di gelosia dura poco. Non avrai sempre 19 anni. E ora me ne vado. Conoscete la strada? Sì, io la conosco, disse Maria, senza sollevare la testa. Pues me voy, disse Pilar. Allora me ne vado. Ti conserveremo qualcosa di sostanzioso da mangiare, Inglés. Si avviò tra l'erba del prato verso il torrente che scendeva snodandosi verso l'accampamento. Aspetta! Le gridò dietro Robert Jordan. È meglio che andiamo tutti insieme. Maria rimaneva seduta e taceva. Pilar non si voltò. Che va insieme? Disse. Ti vedrò poi all'accampamento. Robert Jordan non si mosse. Credi che stia bene? Disse a Maria. Prima ho avuto l'impressione che si sentisse male. Lasciala andare, disse Maria, tenendo sempre china la testa. Non dovrei lasciarla andare sola. Lasciala andare, disse Maria. Lasciala andare. Andavano tra l'erica del prato montano. Robert Jordan sentiva l'erica solleticargli le gambe, sentiva sulla coscia il peso della pistola nella fondina, sentiva il sole sulla testa, sentiva fredda sulla schiena la brezza delle vette nevose e nella mano sentiva la mano della ragazza, forte e ferma, le dita intrecciate alle sue. Da quella mano, da quella palma che riposava sulla propria, dalle dita insieme intrecciate e dai polsi incrociati, dalla mano di Maria, dalle sue dita, dal suo polso, gli veniva un che di fresco, come il primo soffio lieve del mattino che, passando sul mare, increspa appena la superficie vitrea e calma dell'acqua, lieve come una piuma che ti sfiora le labbra o come una foglia che si stacca e cade quando non soffia un alito. Così lieve che egli lo sentiva solo col contatto delle loro dita, ma che si faceva così forte e veemente, urgente, così doloroso e impetuoso quando le dita si serravano e le palme e i polsi aderivano, che era come se una corrente gli percorresse il braccio, riempiendogli tutto il corpo di uno svuotante, doloroso desiderio. Col sole che le brillava sui capelli color grano e sul bel viso dolce e liscio d'oro bruno, e sulla curva del collo, egli le rovesciò indietro la testa e, stringendola a sé, la baciò, La sentì tremare mentre la baciava. Se la premé tutta forte contro di sé e sentì attraverso le due camicie cachi i seni di lei sul suo petto. Sentì i piccoli seni duri e allora le sbottonò la camicia e la baciò. E lei teneva la testa arrovesciata, stretta nelle sue braccia. Poi lasciò cadere il mento sulla testa di lui e egli sentì due mani afferrargli la testa e posarla sul petto di lei. Si raddrizzò e l'abbracciò così forte che Maria fu sollevata da terra, stretta contro di lui, ed egli la sentiva tremare. Poi le labbra di lei furono sulla sua gola e infine lui la mise giù e disse: «Maria, oh mia Maria!» Poi disse: «Dove andiamo?» Maria non rispose, ma gli infilò la mano nella camicia ed egli sentì che la sbottonava. «Anch'io», disse Maria, «anch'io voglio baciare». «No, coniglietto mio, sì, sì, tutto per te. No, questo è impossibile. Allora sì, oh sì, sì». Ci fu poi per Maria l'odore dell'erica schiacciata e la ruvidezza degli steli piegati sotto la sua testa e il sole brillò sugli occhi chiusi. Per tutta la sua vita egli non potrà dimenticare la curva di quel collo e la testa rovesciata tra le radici dell'erica e le labbra che si muovono appena e le ciglia palpitanti sugli occhi chiusi per scacciare il sole ad ogni cosa. Per Maria tutto era rosso e arancione ed oro per il sole sugli occhi chiusi e tutto aveva il colore, tutto, il riempirsi, il possedere, il dare, tutto aveva quel colore stesso in una cecità che era di quel colore. Per lui era una via oscura che non portava in nessun posto, e ancora in nessun posto, di nuovo in nessun posto, di nuovo ancora in nessun posto e sempre eternamente in nessun posto, coi gomiti duramente affondati nella terra, nel buio, sempre e continuamente sospeso verso l'ignoto, nessun posto. Ma per rinascere di nuovo e sempre in nessun posto, insopportabilmente ora, su, su, su e in nessun posto. E poi bruscamente, roventemente, tutto il nessun posto svanito. E il tempo assolutamente fermo. E loro due lì. Il tempo essendosi fermato. Ed egli sentì la terra mancare sotto di sé e sprofondarsi. Poi fu steso sul fianco, la testa affondata nell'erica. Odoravano i fiori, le radici, la terra, e il sole brillava su tutto. E qualcosa gli grattava le spalle nude e i fianchi, e la ragazza gli giaceva davanti con gli occhi sempre chiusi, e a un tratto riaprì e gli sorrise, ed egli disse con enorme stanchezza e in tono molto distante ma cordiale: «Ciao, coniglietto!» E lei sorrise e disse in tono niente affatto distante: «Ciao, mio inglese!» «Non sono un inglese», disse egli molto pigramente. «Ma sì», disse Maria, «sei il mio inglese!» E si piegò, lo afferrò per le orecchie e lo baciò in fronte. «Ecco qua», disse. «Come va? Ti bacio meglio ora?» Poi si avviarono insieme lungo il rivo ed egli disse: «Maria, ti amo. Sei così bella e meravigliosa, e stare con te mi fa un tale effetto che quando ti ho provo il desiderio di morire». «Oh», disse Maria, «io muoio ogni volta. Tu no?» «No, ma quasi. Hai sentito come si muoveva la terra?» «Sì, mentre morivo. Abbracciami, ti prego». «No, ti tengo la mano. La tua mano mi basta». La guardò e poi guardò in fondo al prato dove un falco girava e le grandi nuvole della sera salivano sopra i monti. «E con le altre hai provato lo stesso?» disse Maria camminando con la mano in quella di Robert Jordan. «No, sul serio. E ne hai amate molte altre?» «Qualcuna, ma non come te». «E non è stato così, veramente?» «È stato un piacere, ma non è stato così». «E poi la terra ha tremato. Non l'avevi mai sentita tremare prima?» «No, davvero, mai». «Ah», disse Maria, «e questo l'abbiamo per un giorno solo». Egli taceva. «Ma almeno l'abbiamo avuto», disse Maria. «E dimmi, ti piaccio, dopo diventerò meglio». «Ora sei molto bella». «No», disse Maria, «ma accarezzami la testa». Egli sentì i capelli corti appiattirsi morbidi e raddrizzarsi poi tra le dita. Le mise le due mani sulla testa e la baciò. «Mi piace molto baciare», disse Maria, «ma non lo faccio bene». «Non importa che mi baci». «Sì, importa. Se devo essere la tua donna, devo piacerti in tutto». «Mi piaci abbastanza. Non potresti piacermi di più». «Se mi piacessi di più, non potrei fare nient'altro di più, sai?» «Ma vedrai», disse completamente felice Maria. «Adesso i miei capelli ti divertono perché sono buffi, ma crescono ogni giorno e presto saranno lunghi. Allora non sarò più brutta e forse mi amerai molto». «Hai un bel corpo», egli disse, «il più bel corpo del mondo. È solo giovane e sottile, no? In un bel corpo c'è come una magia. Non so proprio perché in un corpo c'è e in un altro no. Ma nel tuo c'è. Per te», disse Maria. «No, sì, per te, sempre per te, solo per te. Ma è così poco quello che ti do. Mi piacerebbe imparare per assisterti meglio in tutto. Ma dimmi, non avevi mai sentito tremare prima la terra, vero?» «Mai», disse egli sincero. «Ora sono felice», disse Maria. «Ora sono veramente felice». Poi gli domandò: «Ora pensi a qualcos'altro?» «Sì, al mio lavoro». «Vorrei che avessimo dei cavalli», disse Maria. «Sono così felice che vorrei essere su un buon cavallo e correre veloce con te vicino. Andremo sempre più veloci al galoppo e non ci lasceremo mai indietro la mia felicità». «La tua felicità potremmo portarla in aeroplano», disse egli distratto. «E salire su, su nel cielo come i piccoli caccia che brillano il sole», disse Maria. «Avvitarci, scivolare, venire giù in picchiata, che bueno», disse ridendo. «La mia felicità non se ne accorgerebbe nemmeno». Robert Jordan camminava accanto a Maria e il suo cervello pensava ora al problema del ponte, e ogni cosa era chiara e dura e nitida come quando la lente di un apparecchio è messa a fuoco. Egli vedeva i due posti di guardia e Anselmo e lo zingaro che li sorvegliavano. Vedeva la strada vuota e la vedeva piena di truppe. Vedeva dove avrebbe messo le due mitragliatrici per ottenere un campo di fuoco più livellato che fosse possibile. «E chi le servirà?» pensò. «Alla fine me ne occuperò io, ma in principio chi?» Collocava le cariche, le incastrava e le legava, affondava le capsule, le comprimeva, tendeva i fili, li fissava fermamente e poi tornava al posto dove aveva lasciato la vecchia scatola dell'esplositore e cominciava a pensare a tutte le cose che potevano succedere e che potevano andar storte. «Basta», disse a questo punto a se stesso. «Hai fatto l'amore con questa ragazza e ora il tuo cervello è chiaro, veramente chiaro, ed ecco che comincia a preoccuparti. Non ti preoccupare. Sai quello che potrei fare e sai quello che può accadere. Può accadere, certo. Ti ci sei messo dentro sapendo contro che cosa combattevi. Combattevi proprio contro quello che stavi facendo e che eri costretto a fare per avere una probabilità di vincere. Era costretto ora ad usare quella gente che gli era simpatica come si usano dei soldati per i quali non si ha nessun sentimento, se si vuol riuscire. Pablo era evidentemente il più intelligente, aveva capito subito in che guaio si trovavano. Pilar era stata favorevole e lo era ancora, ma si era resa conto lentamente della verità e già era cambiata parecchio. E il sordo aveva capito subito e avrebbe fatto la sua parte, ma non lo faceva certo più volentieri di lui». «Tu dunque dici che non pensi tanto a quello che ti accadrà, ma a quello che potrebbe accadere alla donna, alla ragazza e agli altri. Va bene, va bene. Che cosa sarebbe accaduto loro se tu non fossi arrivato? Tu non sei responsabile di loro, tranne nel corso dell'azione. Gli ordini non vengono da te, vengono da Goltz. E chi è Goltz? Un bravo generale, il migliore sotto il quale tu abbia servito. Ma un uomo deve eseguire ordini impossibili?» «Sì, deve eseguirli, giacché solo durante l'esecuzione possono dimostrarsi impossibili. Se ognuno dicesse che non può eseguire gli ordini quando li riceve, dove andrebbe a finire? Dove andremmo a finire tutti se si dicesse impossibile ricevendo un ordine?» «Qualunque cosa facciano i partigiani, portano la gente che offre loro asilo e collabora con loro nuovi pericoli e sventure. Perché?» «Perché un giorno ogni pericolo sia vinto e il paese sia un posto dove si viva bene. Questo era vero, anche se suonava banale. Se la Repubblica avesse perduto la guerra, non ci sarebbe più stato posto in Spagna per quelli che ci avevano creduto. Sì, egli sapeva che sarebbe stato così, poiché sapeva quello che era accaduto nelle regioni già prese dai fascisti. Pablo era un porco, ma gli altri erano brava gente, e costringerli a questa avventura non significava tradirli. Forse. Ma in ogni caso, fra 2 settimane sarebbero arrivati 2 squadroni di cavalleria per cacciarli da quei monti. E che ne pensava veramente del nuovo ordine sociale e di tutto il resto? Questo toccava agli altri. Lui, dopo la guerra, aveva ben altro da fare. Faceva questa guerra perché era scoppiata in un paese che amava, perché credeva nella Repubblica ed era convinto che la sua caduta avrebbe resa impossibile la vita a tutti quelli che ci credevano. Per la durata della guerra egli si era sottoposto alla disciplina comunista. Qui in Spagna i comunisti erano la gente più disciplinata e facevano la guerra nel modo più intelligente e sano. Egli accettava la loro disciplina per la durata della guerra perché, nella condotta della guerra, il Partito Comunista era l'unico il cui programma e la cui disciplina egli potesse rispettare. Quali erano dunque le sue opinioni politiche? Non ne aveva. «Ma questo non devi confessarlo a nessuno», pensò. «Non ammetterlo mai». «E che cosa farai dopo?» «Tornerò a casa. Mi guadagnerò di nuovo la vita insegnando lo spagnolo». «E scriverò un libro vero». «Certo», disse, «e scommetto che sarà facile».